Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini. L'indomani fu giovedì, il giorno in cui Metello e Ida si erano dati appuntamento a Rifredi. Ignara, ma tutt'occhi e tutta orecchie alle mosse a proposito dell'Idina, Ersilia vigilava. Verso le 11 Ida era scesa, coi capelli sciolti come una maddalena, perché se li era lavati e voleva farli asciugare, ma non completamente, prima di passarsi le stiacce, i ferri che glieli avrebbero arricciolati. Perciò si era trattenuta appena qualche minuto. Aveva elogiato il suo lavoro e gli aveva dato altri sciocchi consigli, delle viole, delle stelle alpine. E se n'era andata, siccome oltre che curarsi i capelli, doveva fare anche tante altre cose a cui la donna a mezzo servizio non arrivava. Un colpo di ferro al suo bel vestito lilla, il bianchetto sulle scarpe a stivale. «Oggi devo trovarmi da mia sorella e ci sono degli invitati», aveva detto. Metello, che era alla camera del lavoro dal mattino, tornò a pranzo per uscire subito dopo. Sedevano in permanenza in corso dei tintori, lui e Giannotto e Corsiero e Del Buono, i delegati di cantiere. Aspettavano questi soldi della sottoscrizione. Dovevano arrivare da un momento all'altro, prima di sera. C'erano tutti i muratori di città e di campagna sparsi e in attesa tra piazza Santa Croce e i cavalleggeri. Dopo nemmeno un'ora, anche Lidina usciva senza fermarsi a salutarla. In altre occasioni non avrebbe mancato di farlo, e specie se andava dalla sorella tra gli invitati, per chiedere «Come sto? Mi si vede la sottana di sotto? La paglia è messa bene? Il vestito dietro come mi torna?» Era scivolata anche lei giù per le scale, e magari fosse davvero scivolata, come una ladra. Ersilia stava di vedetta dietro la porta e la chiamò. La sputorata ebbe il coraggio di agitare l'ombrellino dalla rampa sottostante. «Ho tanta furia, mi lascia andare! Arrivederci a stasera, ciao!» Ersilia la seguì lungo Borgo Allegri e via Ghibellina, costeggiando il muro del carcere. Le garritte l'avrebbero protetta, casomai Ida si fosse voltata. Era attenta, tutta tesa, al suo scopo e nello stesso tempo se ne vergognava. Non si sentiva in nessun modo inferiore alla bella Idina. Anche come aspetto, si era detto, e intendeva come creatura capace di suscitare, oltre che dei sentimenti, dei desideri. Ma confusamente capiva che questo suo gesto di mettersi a pedinarla la diminuiva. Tuttavia era più forte di lei. Il suo cuore adesso era vivo dentro il petto, batteva in fretta, sembrava volesse spronarla a non perdere di vista la nemica. La seguiva a distanza. Ida era una macchia lilla sotto l'ombrellino, e in fondo a via Ghibellina, di rimpetta ai pratoni, sostò alla fermata degli omnibus, salì sul primo che giunse un minuto dopo. Ersilia rimase poggiata al muro del carcere, avvilita. Era sudata e faticava a respirare. Attraversò la strada e imboccò via delle casine, dove il sole batteva a picco, e qualcuno dentro le stanze suonava il violino. Più avanti c'era una fontanella. Si chinò a bere e si bagnò la fronte. Il suono del violino si era perso dietro di lei. Ora c'era soltanto un gran silenzio, un gran sole. E l'acqua che scorreva dalla fontanella. Passò una ragazza che andava in velocipede sotto quel sole e con in testa un ampio cappello che si portava dietro una specie di fuciacca. Fu sul punto di perdere l'equilibrio mentre la sorpassava. Si riprese. «Viva il progresso!» gridò allontanandosi nel sole. Ersilia si asciugava le labbra col dorso della mano e non poté fare a meno di scuotere la testa. Thank you. Ora dentro casa non resisteva. Inutilmente aveva tentato di prendere in mano il Mazzuolo. Andava e veniva dalla finestra per accostarlo, per aprirla di più. Ora c'era troppa luce, ora non ci vedeva. E aveva un'arsione. Più beveva la cannella, più aveva sete. Dove potevano essersi dati appuntamento? All'alberetta come due fidanzati? O veramente dalla sorella di lei che si prestava a farle da ruffiana? Oppure in uno di quegli alberghi dalle parti della stazione dove sembrava d'essero le camere a ore? Ma ci vogliono denari e Metello non ne aveva. Ieri essa gli aveva dato una lira, ma egli aveva perso alla fine della partita e aveva dovuto pagare, a metà con Giannotto, il vino bevuto. Poteva bastargli quel che gli restava per una camera a ore? O addirittura permetteva che pagasse l'idina? Essa aveva sempre del denaro con sé, non usciva senza mettere almeno uno scudo dentro il portamonete. Guardando nelle vetrine ci si innamora sempre di qualcosa o si scoprono delle occasioni, soleva dire. E poi uno si potrebbe sentir male. Metello la provocava. Allora, secondo lei, la povera gente come dovrebbe fare? I poveri non possono permettersi di avere dei capricci. E se gli succede qualcosa, li portano all'ospedale, rispondeva l'esosa. Metello la guardava in un certo modo. E Ida magari arrossiva. Sapeva farlo così bene. E lei, cieca, che la proteggeva e se la stava ad allevare. Era una storia da cronaca cittadina. Novelli ci avrebbe potuto fare una commedia. Ruba il marito alla sua migliore amica. Nemmeno. Ida non era la sua migliore amica. Sua amica era Anita, era Lidia, era stata Miranda prima di morire. Ida era una persona con cui era entrata in confidenza venendo ad abitare in questo nuovo quartiere. Lei, che era nata e praticamente non si era mai mossa da San Frediano. Ma veri Dio, avrebbe dovuto vergognarsi tutta la vita d'esser nata in San Frediano se non metteva a posto questa questione dentro stasera. Intanto non trovava requie. E se fosse stata una sua fantasticheria? Da un momento all'altro lo sciopero si poteva risolvere con una sconfitta. Tanti sacrifici andati all'aria, un altro mese e mezzo di tribolazioni per nulla. E Metello, in una circostanza del genere, si dimenticava di tutto per correre dietro alle sottane dell'Idina. D'un tratto le sembrò di essere una moglie come ce ne sono a migliaia, che si montano la testa con delle ubbie. Di nuovo volle credere di essersi sbagliata e che non fosse Metello l'uomo che aveva disceso le scale in punta di piedi. L'aveva forse vista in viso. Costui era sicuramente uscito dall'appartamento soprastante, era il ganzo della bell'Idina, l'ingrata. Magari se l'intendeva con uno dei lavoranti di suo marito. Parlava spesso del più giovane dei tre, un biondo che assomiglia tutta un poeta a quale non saprei dire ma c'è, le aveva confidato. Povero signor Cesare, si disse Ersilia. Lo teneva anch'essa in così poca considerazione che per la prima volta gli era apparso nei suoi pensieri. Immediatamente se ne liberò. Se non apre gli occhi da sé, io non gli farò certo la spia. Non di meno era lontana dal trovar pace. La macchia lilla scomparsa dentro l'omnibus che imboccava i viali esattamente nella direzione opposta a quella dove abitava la sorella di Ida le tornava davanti agli occhi più viva della tinta dei fogli su cui poggiava gli stampini. Sarebbe bastato arrivare alla camera del lavoro e accertarsi della presenza di Metello, perché il suo cuore ritrovasse la sua pace. Ma come? Con che scusa? Lei non era abituata a mentirgli. Davanti a Metello poteva tacere, ma non dissimulare i propri sentimenti con le parole. Di questo non si sentiva capace. Come si sarebbe comportata? Gli avrebbe detto, lì, in mezzo ai suoi compagni, mentre tutti loro erano impegnati da un mese e mezzo in una lotta per un pezzo di pane, sai, è stato un attacco di gelosia? Giglio mio, Giglio, quanto sei cresciuto. Ricordati del ben ch'io t'ho voluto. Giglio mio, Giglio, quanto sei crescente. Ricordati del ben ch'io ti ho sempre. Era pomeriggio inoltrato. L'ombra aveva raggiunto gli ultimi piani e due visite, una dietro l'altra, in attese, risolsero ogni suo dubbio. Le dettero quella prova che essa ad un tempo desiderava e temeva. Ma ora, acquisita la certezza del tradimento di Ida, ora che sapendole si imponeva il dovere di agire, ella ritrovò compiutamente il proprio equilibrio. Fu l'Ersilia che era sempre stata, docile ma sanfredianina, e che Metello non aveva mai smesso di amare. Dapprima Olindo, che essa non vedeva da più di 15 giorni e che, malgrado le sue insistenze, non era voluto salire. «C'è Metello?» È alla camera del lavoro. Brava, non sarei venuta a cercarla a casa. Salga, Olindo. No, grazie, non c'è ragione. Era scortese da parte sua. Essa, da quando lo conosceva, e poi durante le prime settimane dello sciopero che era stato loro ospite, non l'aveva mai trattato male. Gli aveva persino dato 5 lire togliendosele di bocca, ma pensando a sua moglie e ai suoi figli soli a rincine, schiavi e sottoposti alla buona grazia dello zio fattore, come Olindo, non aveva fatto che ripetere anche piangendo nel corso di quelle settimane. E se adesso era per timidezza che si rifiutava di salire, sentendosi debitore o che, lo stesso si stava dimostrando di poco spirito, un superbo in definitiva. «Metella è uscito 10 minuti fa», ella mentì. «Vi sarete incrociati?» «Siamo davvero un croce!» egli gridò. «I soldi della sottoscrizione sono arrivati?» «Chi lo sa? Se non lo sanno quelli che ci comandano!» V'era dell'astio, dell'ironia nella sua voce. «Olindo, salga un momento solo, un altro giorno, Ersilia!» E si allontanò. La giacca appesa a una spalla, le maniche della camicia rimboccate, il berretto tirato indietro sulla nuca e il suo modo di camminare un po' curvo, stanco, a testa bassa. Ella lo seguiva con lo sguardo. Vide che prima di svoltare in via Michelangelo, gli venne incontro un giovane. Si parlarono brevemente con una certa concitazione. Poi Olindo indicò lei che stava alla finestra e scomparve. «Signora Salani!» disse costui dalla strada. Era Renzoni Piccolo, lo conosceva. Un paio di volte Metello l'aveva invitata a cena. «Salga!» Egli non si lasciò pregare. Si pulì i piedi sulla soglia avanti di entrare, si tolse il berretto e dette la buonasera. Per quanto dominasse malamente la sua agitazione, si sedé, accettò mezzo bicchiere di vino, ed Ersilia non dovette fare altro che lasciarlo parlare. «Credevo proprio di trovare Metello. Anche del buono ne era sicuro. Vai a svegliarlo, vai!» mi ha detto. «Quello si è addormentato. Non c'era altra spiegazione, lo si aspettava alle 7!» Guardò Ersilia e credé di attribuirle un sentimento ben diverso da quello che in realtà essa provava. «Non gli sarà successo nulla di certo, soltanto lo si sta aspettando. La sua presenza diventa di minuto in minuto più necessaria!» «No», Ersilia pensava, «nulla di male, soltanto che non lo porta via a me solamente, ma anche ai suoi amici, gli fa dimenticare il suo dovere, lo fa scadere dalla considerazione della gente!» Queste erano le parole che mentalmente ella si ripeteva, ma disse... «È andata in San Frediano a trovare il bambino che sta da mia madre. L'avrà portata a fare una passeggiata a bello sguardo verso Arcetri, e il tempo gli sarà passato senza che se ne accorgesse.» «Questo non ci voleva!» esclamò il piccolo Renzoni. «Dopo Bastiano, suo marito, è quello che ha la testa sulle spalle più di tutti. E poi, per quanto lui non si mette in mostra, lo ascoltano, capisce? Senza di lui, Bastiano dura fatica a mantenerli buoni. Siccome i soldi della sottoscrizione non sono arrivati, è nata una discussione. Corrono delle parole, gli animi sono eccitati, lei si può immaginare, specie quelli del cantiere di Badolati, friggono che è un piacere. Il Tinai, per esempio, è uno dei più decisi a tornare sul lavoro, e non è il solo, il tedesco lo conosce, ha già preso la sua decisione. Ora, sul Tinai in particolare, Metello c'ha un ascendente.» Come accorgendosi d'essersi concesso un'eccessiva libertà, si alzò in piedi, quasi di scatto, si accomiatò stringendole forte la mano. «Speriamo che in questo frattempo sia arrivato.» Affacciandosi alla finestra, Ersilia lo vide che staccava la corsa, certamente per essere presta al fianco di Del Buono, l'entusiasmo e la devozione dei 20 anni lo sospingevano. Ella rimase alla finestra. Era incredibilmente calma adesso, padrona di sé, e a suo modo serena. Il sole era calato dietro i tetti, c'era il vocio e il solito via vai sulla strada. Ersilia aveva appoggiato i gomiti ad avanzale e aspettava. Era ormai sera, ed entrando in città, fin dalle prime case, Ida trovò i lampioni accesi. Aveva accelerato il passo, l'ombrellino premuto sul fianco, l'altra mano impegnata a trattenere un lembo della lunga gonna. Se la strada era deserta, accennava una corsetta. La paglia ondeggiava sulla sua testa, e il suo abito lilla, da cui sbucavano gli stivaletti, era tutto pieghe e fruscii. Sembrava che essa si volesse graziosamente sottrarre a un temporale di cui era la sola a intravedere la minaccia in quel cielo sereno dove brillavano le stelle e c'era un quarto di luna. Rientrare prima di Cesare, questo voleva. E non per il timore di non riuscire a persuaderlo con una bugia, ma per non doversi accingere a una discussione. Pensava, appena a casa, di riempire d'acqua la conca e tuffarvisi tutta nuda. Sbucando su piazza San Gallo, urtò un giovane che proveniva dall'interno del parterre. Costui si scusò togliendosi la paglietta. «Pardon», disse «Madame». Ella era già qualche metro distante e non poté fare a meno di squittire divertita. Un omnibus a cavalli sostava sotto l'arco napoleonico. «Un momento!» ella gridò. Quando fu sicura di aver richiamato l'attenzione del conducente, si fermò come spossata, sorreggendosi all'ombrellino. Una, due, tre mani virili si sporsero per aiutarla a salire. Dietro di lei, anche il giovane di poco prima aveva raggiunto la piattaforma. E mentre l'omnibus percorreva i viali di circonvallazione, le si era seduto di fronte e non le toglieva gli occhi di dosso. Come gli altri uomini lì presenti, del resto. Come le due donne in cappelli, ciascuna con in braccio un bambino. E quella ragazza e il maturo operaio che le stava accanto. Sguardi di ammirazione, ella non ne dubitava. La sua grazia e la sua eleganza, il pudico cenno della testa con cui aveva ringraziato salendo, l'atteggiamento pensoso che adesso si adattava, erano fatti apposta per restare impressi e per colpire. Certo, nessuno di costoro poteva immaginare che soltanto mezz'ora prima la giovane signora a cui sembrava facile attribuire un censo si abbandonava alle carezze di un muratore tra i sassi e gli sterpeti di Terzollina. Né che ora, sotto la sua fronte in apparenza abitata dai più leggiadri pensieri, il più leggiadro fosse questo. «Mi sento tutta appiccicata». Così dicendosi, le ridevano gli occhi, e rapidamente li abbassava incontrando lo sguardo del giovane dalla paglietta. Non di meno, vedeva che sotto quella paglietta e quello sguardo c'erano due baffi neri stupendamente arricciolati, un solino impeccabile, una farfalla azzurra. «Chissà chi è?» si chiedeva. «Un francese per davvero?» Ma la sua testolina, nemmeno troppo ambiziosa dopo tutto, come non ospitava più pensieri in una volta, non era capace di distrarsi da un desiderio per un altro. Ora la sua mente tornava a Cesare e si diceva, se arriva prima di me, uffa, sa quante storie. Magari, e sia, avrebbe risposto a tutte le sue domande, i pretesti le sarebbero venuti lì per lì, non c'era da preoccuparsene, ma a patto che mi faccia la doccia. Già pregustava la gioia di sentirsi l'acqua scorrere sulla schiena, lei accovacciata dentro la conca e Cesare che le versava l'acqua sulle spalle e sul seno. L'omnibus si arrestò in piazza Beccaria. Poco più in là della gente faceva cerchi attorno al forzatore che dilatando il torace spezzava le catene. Il lume a carburo posato per terra ingigantiva l'ombra dell'atleta dal petto nudo e incatenato. Ne provò una dolce emozione. Si alzò per veder meglio, ma subito tornò a sedersi, fingendo di aver creduto che quella fosse la sua fermata. Lei muovendosi, anche il giovane dalla cravatta azzurra si era mosso e ora, sorpreso, rivelato nelle sue intenzioni, si decise a discendere. Allorché l'omnibus gli sfilò davanti, si tolse nuovamente il cappello e accennò un inchino. Ida gli restituì il saluto inclinando la testa e in cuor suo pensava, «Per i timidi, angelo mio, non c'è paradiso». Qualche minuto dopo entrava in via dell'Ulivo, felice della sua giornata e col pensiero di già tuffata dentro la tinozza. A metà scale l'attendeva Ersilia. «Venga un momento da me, Ida, tanto suo marito non è ancora rientrato». «Oh, Ersilia, come mai si era dimenticata che esistesse? Gli allori raccolti sull'omnibus l'avevano stordita fino a quel punto? Comunque, ora si trattava di affrontarla, di ammirare i suoi papaveri neri dalla corolla arancione e tutto era sistemato. «Mi lascia andare, son stanca morta, sapesse da dove vengo». «Non era andata da sua sorella?» «Già, ma al ritorno ho fatto una passeggiata sui Lungarni fino all'Indiano. Ho preso tanto sole da stordire. Mi lascia andare», ripeté. «E poi, un momento solo, via, mi dica». Ersilia era ignara e gentile. Assecondarla era ciò che bisognava fare. Ida, piuttosto che in difetto, si sentiva maggiore e più esperta di lei. Dava a Metello la gioia che lei non aveva saputo dargli, oltretutto lo accarezzava con delle mani ben curate. Questi, entrando nel salotto cucina, erano i suoi pensieri, ma disse, «Non c'è il bambino?» «No, è in San Frediano, se n'è scordata?» Ersilia la spingeva per un braccio e quasi la costrinse a sedersi, affettuosamente, sempre. Sul tavolo c'era acceso il lume a petrolio e da una parte stavano le carte colorate, i fiori lavorati e gli stampini. «Vedo che non ha progredito granché col lavoro», si tolse la paglia e la depose sul tavolo. «Già, ho lavorato poco», ammise Ersilia. Le sedé di fronte, ginocchia contro ginocchia, come per invitarla a reggere la matassa, pensò Ida, e scioccamente si affezionò a quest'idea mentre si riordinava i capelli sulle tempie e alla crocchia. «Ad affare dei gomitoli?» le chiese. Teneva una forcina tra i denti, le mani dietro la nuca, e siccome Ersilia non le rispondeva, la guardò in viso. Allora incominciò a sospettare. Era pallida, come non l'aveva mai vista. Aveva lineamenti tirati, gli occhi grandi, la pelle lustra di un sudore freddo, si sarebbe detto, e sulle labbra un sorriso che non era il sorriso né di una persona affaticata, né tantomeno di un'amica. Ida fece appena in tempo a infilarsi la forcina dentro i capelli, ma non la poté fermare, poiché Ersilia fermò lei con due parole. «Brutta puttana!» e subito dopo «Dove l'hai portato?» Neanche le permise di abbozzare una difesa. «Portato? Chi? Cosa?» tentò di dire. Fulmineamente, restando seduta faccia a faccia, Ersilia le aveva vibrato uno schiaffo. Sotto il colpo Ida scartò di lato, ma un secondo schiaffo sull'altra guancia la rimise in equilibrio, e due, quattro, sei, tante doppiette la raggiunsero, dall'orecchio alla bocca, prima che potesse piegarsi in avanti e nascondere la faccia tra le mani. Ersilia si era alzata, la rovesciò sulle spalle, tirandola per i capelli, e con la mano libera continuava a colpire, in silenzio, calma, badando dove picchiava, impegnandovi tutte le sue energie di donna sana, forte, sanfredianina. Ida, mezza svenuta ormai, le braccia abbandonate, il mento proteso, si offriva suo malgrado alla tortura. Un groppo le chiudeva la gola e le toglieva il respiro. Implacabile, sempre trattenendola per i capelli, Ersilia la batteva sul viso. Finché vide che non più saliva, ma sangue usciva dalla bocca della bella Idina. Lasciò la presa, e Ida ricadde con la testa in avanti, ora singhiozzando disperatamente. Ersilia le porse un tovagliolo bagnato. «Tieni», disse, «pulisciti la bocca e vattene, su, aria!» Ida ubbidì tra le lacrime, il volto in fiamme, come una bambina castigata. Il sangue le usciva dalle gengive, fece presto a stagnare, ma il labbro superiore si gonfiava a vista d'occhio, e se Ersilia lo vedeva, lei lo sentiva. Si toccò, e le parve smisuratamente infiato, come le guance, le orecchie e il naso su cui via via posava la mano. Sconvolta qual era, si immaginò che Ersilia l'avesse sfregiata. Ebbe uno scatto, gridò, «Sì, te l'ho portato via, sì, ne faccio quello che voglio!» Si alzò rabbiosamente decisa a passare all'offensiva. Ma Ersilia le stava davanti e subito l'umiliò con un'altra doppietta, come due schioppettate. Una ginocchiata sul ventre la raggiunse come l'eco di codeste schioppettate. Ida si ritrovò ai suoi piedi, materialmente ora, i capelli disciolti e il bel vestito lilla macchiato di cinabrese. Il dolore al ventre, al viso e più l'istinto della vittima la sopraffecero. Si abbandonò supina sull'impiantito e digrignava i denti e si dibatteva, schiumava sangue e bava. Quando rinvenne, erano passati pochi minuti. Si ritrovò seduta sulla medesima sedia, e accanto a lei, da un lato c'era Ersilia, e dall'altro Cesare, che le faceva odorare l'acqua antisterica, e la chiamava coi più dolci nomi, Pallina, Zucchero, Idinina, ma più che il marito, ella udiva Ersilia. Un colpo di sole, Ersilia diceva, è andata sul lungarne a fare una passeggiata, si è tolta la paglia, vede com'è tutta presa al viso? Ha bussato alla porta per chiedermi aiuto, l'ho messa a sedere, e mentre tornavo con questo panno bagnato, me la son ritrovata ai piedi. Ha battuto il labbro, nulla di male, c'ha tutti i denti sani, speriamo impari a non fidarsi troppo del sole. Lentamente, tornando alla ragione, Ida si provava a sorridere, intanto assentiva. «Sei sempre la solita bambina», disse Cesare, e la baciò sulla fronte. Poi si rivolse a Ersilia. Sembrava se lo sentisse. Aveva voluto rimandare di una settimana la partenza per il mare. Invece, credo ci abbia ripensato, vero Idina? Le chiese Ersilia. E per quanto la sua voce risuonasse dolce e comprensiva, il suo sguardo sfavillava. Forse, Ida disse, chissà, era nuovamente in sé, anche se con i lineamenti un po' alterati. Dipende da come passerò la nottata. Mentre Cesare le umettava il labbro con il fazzoletto, Ersilia le cambiava la pezza bagnata sulla fronte, premendola più del necessario, tanto che l'acqua e aceto di cui la pezza era imbevuta le colò sugli occhi. «Io credo che cambiare aria le giovi. Lei, Ersilia, non è di questo parere?» disse Cesare. Ida si sottrasse alle loro cure, e con gli occhi che le bruciavano, ora come il labbro e il viso, prese il cappello di sopra il tavolo e si avviò alla porta. «Mi so custodire da me!» gridò. E non volendo aggiunse, «La ringrazio di tutto, Ersilia. Buonasera!» «La compatisca, è una bambina!» Cesare disse, e la seguì. Rimasta sola, Ersilia gli ordinò il tavolo, le sedie e tornò alla finestra. Di tanto in tanto, mentre spiava i due angoli della strada, si passava un dito sotto gli occhi e tirava su col naso. Fuori la fiaschetteria avevano attaccato il concertino. C'era la chitarra, c'erano i mandolini e la solita voce roca che li sovrastava. «Con l'ago tu lo cuci il tuo corredo!» Ora, un sentimento per lei stessa confuso ma lancinante e soavissimo insieme la possedeva. Desiderava che Metello tornasse presto, poterlo vedere, accarezzarlo con lo sguardo, come se egli fosse partito da tanto tempo ed ella temesse di non riconoscerlo. Udire la sua voce, la sua presenza avrebbe fatto risorgere il sole anzitempo. L'attesa la sfibrava e un senso di timore, già una paura inconsulta per un torto fatto piuttosto che ricevuto, una profonda amarezza infine si mischiava ogni momento di più alla tenerezza che l'invadeva. A una finestra di rimpetto, qualche casa più avanti, si affacciò una donna, Celeste. La Celeste era la moglie di un fontaniere. Avevano 4 figli, tutti piccoli, a scala. Lei e il marito erano all'ordine del giorno nella strada per i loro litigi. Lui beveva e la picchiava. «Sestilio!» costei gridò. «La cena è pronta!» «Non c'è bisogno di urlare!» egli le rispose, sgarbatamente. Sedeva sulla soglia della rimessa, giocava a carte col bacalaro. «Mettila in caldo! Debbo finire questa partita!» «Sono tutte stillettate allo mio cuore!» diceva lo stornello. Ersilia rientrò in cucina, riattizzò il fuoco. Si era asciugata il viso, passata il pettine sui capelli, quando Metello apparve e trovò pronta la frittata di pane, la tavola apparecchiata, il mezzo litro di vino. Ersilia lo accolse disinvolta e serena all'apparenza. Gli disse: «È mezzanotte, ti sei fatta aspettare». Egli posò la giacca che teneva sulle spalle e, senza togliersi il berretto, si sedé al tavolo. Dapprima nemmeno le rispose, incominciò a mangiare. Il suo sguardo era risentito, fissava un punto che soltanto lui vedeva. «Cos'è successo?» ella ripeté. Finalmente egli le rispose. «Può darsi che il peggio sia ancora da avvenire». Qui le spiegò che Olindo aveva spalleggiato i crumiri che l'indomani sarebbero tornati sui cantieri. «Proprio ora che gli imprenditori finiranno per trattare, siccome Roma gli ha risposto picche, una buona percentuale, Olindo in testa a quanto pare, hanno deciso di riprendere il lavoro. Gli imprenditori volevano che il prefetto pigliasse in mano la situazione, che venisse chiusa la Camera del Lavoro e fossero arrestati i caporioni. Cioè noi, Del Buono, Giannotto, me, ci hanno messo anche me fra i caporioni, tutti i rappresentanti di cantiere. E purtroppo, in parte ci sono riusciti. Oggi Olinte è venuta a cercarti. Lo so, me l'hanno detto». Ella fu sul punto di chiedergli: «E tu dov'eri?» Ma lo vedeva così preso da questa sua preoccupazione, così chiuso in sé, avvilito, che non ne fu capace. Ora anche in lei la curiosità era un'altra, e vi si mischiava il timore. Gli chiese: «Cosa vuol dire in parte ci sono riusciti?» Egli la guardò. Non c'erano mai stati dei segreti tra loro. Né Ersilia era una moglie, come ce n'erano tante, anche tra le donne dei suoi compagni di lavoro, alle quali per un non nulla scappa il cuore, e più ne è disperato, più dovrebbe tenersi tutto per sé, fino a scoppiare. Come sempre, confidarsi ad Ersilia, oltre che soggiacere a un desiderio istintivo, qualcosa di più di un dovere sentimentale, gli permetteva di ricapitolare la realtà dei fatti e la situazione medesima in cui si era venuta a trovare. «Stamma a sentire». E anche se questa volta ci fu un segreto, egli le raccontò tutto, fuorché il motivo per cui non si trovava alla Camera del Lavoro quel pomeriggio. Ella non gli fece altre domande, né lui, tacendo della sua avventura con Lidina, si sentì in colpa e in peccato. Qualcosa li sovrastava, che per il momento gli imponeva di porre in disparte i loro sentimenti. «Alla svelta», aggiunse, «debbo essere fuori prima di giorno e vorrei dormire un paio d'ore». Alessandro Benvenuti ha letto Metello di Vasco Pratolini, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it